ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Il 6 gennaio, il giorno dei Re Magi, non ce la feci più a restare in casa. La gatta continuava a trattarmi con grande disprezzo, mostrandomi il sedere tigrato. E l'ince ardeva dal desiderio di uscire, e così mi infilai tutto ciò che poteva in qualche modo tenermi caldo e mi incamminai col cane. Era una giornata di gelo, bellissima e infida. Gli alberi innevati scintillavano dolorosamente alla luce del sole e la neve secca scricchiava sotto i miei piedi. L'ince sfrecciò via, avvolto da una nube di polvere iridescente. Il freddo era tale da gelarmi subito l'alito e ogni respiro mi bruciava nei polmoni. Mi annodai un fazzoletto per proteggere il naso e la bocca e calai bene il cappuccio sulla fronte. Per prima cosa mi recai al posto dove veniva foraggiata la selvaggina. Vi trovai innumerevoli impronte. A vedere come si erano tutti radunati lì, spinti dalla penuria, per trovare le mangiatoie vuote, il freddo mi strisciò nelle ossa. Tutto un tratto odiai l'aria azzurra, tremolante, la neve e me stessa, che non ero in grado di aiutare quegli animali. Nella grande penuria le mie castagne erano meno che nulla. Cederle era pura follia, ma non potei fare diversamente. Tornai immediatamente a casa, tirai fuori dalla camera i due sacchi, li legai uno all'altro e me li trascinai dietro sulla neve. L'ince si entusiasmò a quella impresa e prese a saltarmi intorno, incoraggiandomi col suo latrare. Il posto dove si trovavano le mangiatoie distava solo una ventina di minuti, ma il cammino era in salita. La neve inoltre era alta, per cui arrivai in cima esausta, con le mani irrigidite. Svuotai i sacchi nelle mangiatoie, sentendomi un po' matta. Dato il freddo intenso, non osai sedermi. Proseguì dunque lentamente il cammino in salita. Trovai le loro tracce dappertutto. La selvaggina alpina aveva abbandonato le zone più alte per scendere verso i caprioli. Al calare del crepuscolo sarebbero accorsi tutte le mangiatoie e almeno per una volta ancora avrebbero potuto sfamarsi. Le cortecce degli alberi giovani erano rosicchiate. Decisi che l'estate successiva avrei accantonato una piccola provvista del fieno falciato per la selvaggina. Formulare quel proposito non mi costò fatica, l'estate era lontana. Quando mi trovai a falciare veramente il prato, cambiai opinione. Ora comunque ho sempre fieno a sufficienza da poter foraggiare la selvaggina per una settimana in caso di estrema necessità. Sarebbe forse più saggio non farlo. La selvaggina tende comunque a moltiplicarsi eccessivamente, ma non posso abbandonarla a una fine così miserevole, lasciandola semplicemente morire di fame. Dopo un quarto d'ora mi resi conto di non riuscire a sopportare oltre il freddo e tornai. Sembrò d'accordo anche l'ince. Il suo entusiasmo si era raffreddato presto. Sulla via del ritorno, semi nascosto in un cumulo di neve, trovai un capriolo con la zampa posteriore spezzata che non riusciva più a muoversi. Era una brutta frattura. Le schegge dell'osso fuoriuscivano dal pelo. Sapevo di dover porre subito fine a quel tormento. Era un capriolo giovane, molto magro. Non avevo con me il fucile e fui costretta ad abbattere l'animale conficcandogli con un colpo secco il coltello da caccia dietro la nuca. Il capriolo sollevò debolmente la testa e mi guardò. Poi emise un sospiro e ricadde tremando nella neve. Lo avevo colpito nel punto giusto. Era solo un capriolo piccolo, ma lungo il cammino verso casa il carico mi pesò sulle spalle. Più tardi, dopo essermi scaldata le mani nel tepore della stanza, lo sventrai. Aveva il pelo già irrigidito dal gelo, ma nell'aprirlo un leggero vapore esalò dal ventre. Il cuore era ancora tutto caldo. Sistemai la carne in un mastello di legno e la portai in una delle stanze al piano superiore, dove entro la mattina seguente si sarebbe congelata. Divisi il fegato tra l'ince e la gatta. Io riuscii solo a bere un bicchiere di latte caldo. Durante la notte udii il freddo crepitare nella legna. Avevo caricato bene la stufa, ciò malgrado tremavo sotto la coperta senza riuscire a prender sonno. Ogni tanto un ciocco scoppiettava per spegnersi subito dopo. Mi sentivo male. Lo sapevo, derivava dal fatto di essere continuamente costretta a uccidere. Cercai di immaginare cosa potesse provare un essere umano al quale uccidere procurava piacere. Ne fui incapace. Mi si rizzavano i peli sulle braccia e la bocca si seccava dal disgusto. Forse occorreva nascere a quel modo. Potevo arrivare a farlo il più rapidamente possibile, con una certa abilità, ma non sarei mai riuscita ad abituarmici. Rimasi a lungo distesa nell'oscurità crepitante, pensando al piccolo cuore che nella camera sopra di me stava congelandosi in un blocco di ghiaccio. Questo accadde nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Il gelo durò ancora 3 giorni. Ma le castagne erano scomparse già la mattina dopo. Trovai altri 3 caprioli morti congelati e un cerbiatto, e chissà quanti ne avrei trovati ancora. Dopo il grande freddo, arrivò un'ondata di aria più calda e umida. Il viottolo della stalla si trasformò in uno specchio di ghiaccio. Fui costretta a spargere della cenere e a picconare la superficie ghiacciata. Poi il vento di ponente virò e prese a tirare da sud, sibilando giorno e notte attorno allo chalet. Bella si era fatta irrequieta e almeno 10 volte al giorno mi toccava andare a vedere che stesse bene. Mangiava poco e spostava il peso da una zampa all'altra e durante la mungitura si ritraeva indolenzita. Al pensiero del parto imminente venivo presa dal panico. Come avrei fatto a estrarre il vitello da Bella? Una volta avevo assistito alla nascita di un vitello e ricordavo vagamente come fossero andate le cose. 2 uomini robusti avevano estratto il vitello dal grembo materno. M'era parso un modo barbaro e avevo provato una terribile pena per la mucca, ma forse le cose dovevano andare proprio così. Io non ne sapevo proprio nulla. L'11 gennaio Bella perse un po' di sangue. Fu la sera dopo averla foraggiata e per quella notte decisi di sistemarmi nella stalla. Riempito il termos di tè caldo, preparai corda, forbici e una fune robusta e misi un secchio d'acqua sulla stufa. Lince voleva partecipare a tutti i costi, ma lo chiusi in casa. Nella stalla avrebbe creato solo confusione. Avevo già predisposto un piccolo tramezzo di assi per il vitello e l'avevo riempito di strame fresco. Bella mi salutò con un cupo mugito, apparentemente contenta della mia presenza. Potevo solo sperare non fosse il suo primo vitello e che avesse già qualche esperienza alle spalle. L'accarezzai e le parlai per farle coraggio. Aveva dolori ed era tutta assorbita da quanto andava sviluppandosi nel suo ventre. Scalpitava irrequieta senza mai distendersi. Le mie parole sembrarono tranquillizzarla e così le raccontai tutto ciò che la levatrice mi aveva detto in clinica. Andrà tutto bene, ormai è quasi finita, non farà più molto male, e sciocchezze del genere. Andai a sedere nella poltrona che avevo trasportato dal garage. Più tardi tornai in casa a prendere l'acqua. Era bollente e fumava, aveva comunque tempo di raffreddarsi. Dal secchio saliva il vapore acqueo e mi sentivo angosciata, come se avessi dovuto partorire io stessa. Si fecero 9. Il fön scuoteva il tetto e per l'agitazione mi vennero i brividi e mi versai del tè caldo. E ancora una volta promisi a Bella un parto facile e un bel vitello robusto. Aveva voltato la testa dalla mia parte e mi guardava con aria tormentata e paziente. Sapeva che volevo aiutarla e questo mi diede un po' di fiducia in me stessa. Poi, per lungo tempo, non accadde nulla. Ancora una volta dovetti sgombrare il letame e spargere un po' di strame fresco. Il vento si placò e all'improvviso si fece un grande silenzio. Il lume ardeva giallo e tranquillo sul piccolo fornello. In nessun caso dovevo farlo cadere, dovevo fare attenzione a tante cose. Forse durante il parto non sarebbe bastata nemmeno la luce. Tutto a un tratto provai una terribile stanchezza. Mi dolevano le spalle e la testa vacillava in qua e in là. Avrei voluto gettarmi sullo strame fresco per dormire, nello scomparto destinato al vitello. Un paio di volte mi appisolai, svegliandomi di soprassalto per lo spavento. Bella riprese a sanguinare con doglie forti. I fianchi le si curvavano nella violenza del travaglio. Ogni tanto emetteva qualche lieve gemito e io le parlavo per farle coraggio. A un certo punto beve un po' d'acqua. Vidi che la cosa procedeva lentamente e poi apparve infine una zampa madida e subito dopo un'altra. Bella penava molto. Tremando un poco per l'agitazione, legai le due piccole zampe brune e presi a tirare la fune. Ma senza alcun successo, non possedevo la forza di due uomini robusti. Improvvisamente, mentre stavo osservando Bella da vicino, tutto mi fu chiaro. Riuscii a immaginare perfettamente come il vitello giaceva dentro di lei. Era del tutto insensato tirare le zampe anteriori. Questo poteva solo far arretrare la testa anziché spingerla in avanti. Mi lavai le mani e, palpando cautamente, le infilai nel ventre caldo di Bella. Fu più difficile di quanto avessi pensato. Dovevo attendere che la doglia scemasse per penetrare più in profondità. Ce la feci ad afferrare la testa e a spingerla in basso con entrambe le mani. La doglia successiva mi serrò le braccia, ma la testa scivolò in avanti. Bella gemeva forte, spostandosi di lato. La incitai premendo in basso la testa fin quando il sudore mi colò negli occhi. Il dolore nelle braccia si fece insopportabile, ma ecco apparire la testa. Bella sbuffò sollevata. Attesi la doglia successiva, quindi tirai la fune e si presentò il vitello così all'improvviso da costringermi a balzare in avanti per raccoglierlo sulle mie ginocchia. Lo lasciai delicatamente scivolare a terra. Il cordone ombelicale era già strappato. Deposi il piccolo davanti alle zampe anteriori di Bella, che si mise subito a leccarlo. Eravamo entrambe felici di essercela cavata così bene. Era un piccolo torello e lo avevamo dato alla luce insieme. Bella pareva non averne mai abbastanza di leccare suo figlio, mentre io ammiravo i riccioli umidi che gli ricadevano sulla fronte. Era grigio bruno come sua madre. Forse crescendo si sarebbe scurito un poco. Già dopo pochi istanti tentò di drizzarsi sulle zampe e Bella, dal troppo amore, sembrava volerlo mangiare. Infine, quando mi sembrò che lo avesse leccato abbastanza, sollevai il torello e lo portai nel suo scomparto. Bella poteva chinarsi al di sopra del tramezzo per leccargli le frogge quanto voleva. Poi le diedi dell'acqua tiepida e fieno fresco. Ma sapevo che il parto non era del tutto concluso. Mi trovavo in un bagno di sudore, era mezzanotte. Mi accasciai nella poltrona e bevvi del tè caldo. Visto che non dovevo addormentarmi, tornai ad alzarmi e presi a camminare avanti e indietro nella stalla. Dopo un'ora Bella incominciò di nuovo ad agitarsi per le contrazioni. Questa volta ci vollero solo pochi minuti perché comparisse la placenta e Bella si sdraiò stremata. Riassettai la stalla, sparsi dello strame fresco e diedi ancora un'occhiata al vitello. Si era addormentato, semi nascosto nella paglia. Presi con me il lume, chiusi la porta della stalla col chiavistello e tornai in casa. Lince mi accolse tutto eccitato e io gli raccontai com'era andata, anche se non poteva afferrare le mie parole. Comprese certamente che a Bella era accaduto qualcosa di lieto e andò a rannicchiarsi nella sua cuccia rassicurato. Mi lavai con cura, misi altra legna sul fuoco e andai a letto. Quella notte nemmeno mi accorsi che la gatta saltò sul letto e mi svegliai solo alla luce del mattino. Per prima cosa andai alla stalla. Spostai il catenaccio col batticuore. Bella era intenta a leccare il naso a suo figlio e a quella vista tirai un sospiro di sollievo. Stava già ben ritto sulle zampe robuste e lo condussi vicino a sua madre, premendogli il muso contro la mammella. Afferrò subito e bevve a sazietà. Bella si spostava da un piede all'altro quando il piccolo andava a piantarle il cranio tondo nel ventre. Era un ragazzetto visibilmente sveglio. Quando fu sazio, terminai la mungitura. Il latte era grasso e giallo e non mi piaceva. Bella adesso aveva un aspetto sciupato, quasi scavato, ma sapevo che con le dovute cure si sarebbe presto rimessa. Nei suoi occhi umidi potevo leggere che nuotava in una calda felicità. Fui sopraffatta da una strana sensazione e dovetti fuggire dalla stalla. Il fön continuò a soffiare. Il tempo rimase ventoso con qualche pioggia. Più tardi, squarci d'un azzurro acquoso apparvero tra le nuvole volanti e ombre nere scivolarono rapidamente nella radura. Mi sentivo inquieta e tesa. La gatta era come carica di elettricità. Quando l'accarezzavo, il pelo le si rizzava crepitando. Era agitata, mi inseguiva lamentandosi, premeva il naso caldo e asciutto contro il palmo della mia mano e non voleva mangiare. Temevo già l'avesse colpita qualche malattia sconosciuta, quando compresi infine che chiedeva un gatto. 100 volte andò nel bosco, per assalirmi al ritorno con le sue lamentose effusioni. Perfino Lince, che si accorgeva appena del fön, fu contagiato dalla sua agitazione, continuando a correre attorno alla casa, disorientato. La notte mi svegliai per il richiamo di un animale sconosciuto nel bosco. Cao! Cao! Il suono ricordava quello di un gatto, ma non propriamente. E io mi misi in ansia per la mia gatta. Non tornò per 3 giorni. E persi quasi la speranza di rivederla. Il tempo girò e cominciò a nevicare. Ne fui contenta perché mi sentivo debole e non in grado di lavorare. Il vento caldo mi aveva stordita e debilitata. Mi ero messa in mente che portasse con sé un leggero odore di putrefazione. Forse non si trattava della mia immaginazione. Chissà cosa aveva sgelato il vento di tutto ciò che giaceva sparso nel bosco e irrigidito dal gelo. Era una benedizione non dover più udire il vento e poter osservare i fiocchi leggeri volteggiare davanti alla finestra. Durante quella notte tornò la gatta. Accesi la candela e la gatta mi balzò sulle ginocchia. Sentivo il suo pelo madido e freddo attraverso la camicia da notte e la serrai tra le braccia. Miagolava con insistenza e voleva raccontarmi cosa le era successo. Continuò a darmi dei colpetti sulla fronte con la testolina e il suo strepitare fece uscire Lince dalla tana per venire ad annusare gioiosamente la nostra reduce. Alla fine mi alzai e andai a scaldare un po' di latte per tutti e due. La gatta era completamente denutrita, arruffata e malconcia, esattamente come il giorno in cui era comparsa con i suoi richiami davanti alla mia porta. Mi misi a ridere, presi a rimproverarla e a lodarla tutto d'un fiato, e Lince si mostrò estremamente confuso perché la gatta incominciò a gratificare pure lui con dei piccoli colpi di testa. Doveva esserle successo qualcosa di eccezionale. Forse Lince, di quello strepitare, ne capiva più di me. In ogni caso doveva trattarsi di qualcosa di gioioso, perché se ne tornò trotterellando tutto contento al suo giaciglio. La gatta non riuscì a calmarsi tanto presto. Camminava avanti e indietro, impettita, con la coda ritta, strofinandosi contro le mie gambe e miagolando piano. Solo quando mi fui di nuovo distesa e con un soffio ebbi spento la candela, venne nel mio letto e prese a lavarsi accuratamente. Per la prima volta, dopo molti giorni, mi sentii tranquilla e distesa. La quiete della notte invernale era come un miracolo benefico dopo il muggire e il sibilare del vento. Infine presi sonno, il gorgoglio soddisfatto delle fusa nelle orecchie. La mattina trovai 10 centimetri di neve fresca. La bonaccia perdurava e il prato vicino al bosco era immerso in una luce bianca e ovattata. Nella stalla Bella mi salutò con impazienza, lasciando che le conducessi il figlio famelico. Diventava di giorno in giorno più vispo e robusto e anche il ventre scavato di Bella si era già leggermente arrotondato. Tra poco nulla avrebbe più revocato quella notte di gennaio sferzata dal fön in cui avevamo messo al mondo il torello. Quei due erano completamente assorbiti l'uno dall'altra e io mi sentii un poco esclusa e sperduta. Mi resi conto di invidiare Bella e me ne andai dalla stalla. Al momento di me non c'era bisogno, salvo per il foraggio, la mungitura e per rigovernare il letame. Appena chiusa la porta alle mie spalle, la penombra della stalla si trasformò in una piccola isola di felicità, pervasa di tenerezza e dal caldo alitare degli animali. Era meglio se mi cercavo subito un lavoro piuttosto che abbandonarmi a tali pensieri. Nel garage restava solo poco fieno e dopo colazione scesi con Lince nella gola per andarne a cercare. La gatta, magrissima e col pelo opaco, giaceva sul mio letto e dormiva il sonno della prostrazione. Quella mattina feci 2 viaggi per cercare il fieno e altrettanti il pomeriggio. Lo stesso feci il giorno dopo. Non faceva freddo, ogni tanto cadevano piccoli fiocchi di neve asciutta. La tregua del vento continuava. L'inverno era proprio come piaceva a me. Lince, finalmente spossato dal via vai tra il prato accanto al ruscello e lo chalet, non si muoveva dalla nicchia della stufa e la gatta dormì per giorni interi, alzandosi solo per mangiare e per le sue brevi escursioni notturne. Sorbiva il sonno come una medicina. I suoi occhi tornarono chiari e il pelo lucente. Pareva molto soddisfatta. E mi venne il sospetto che l'animale sconosciuto nel bosco fosse davvero un gatto. Lo nominai signor Cao Cao, immaginandolo molto fiero e ardimentoso, anche perché, diversamente, non avrebbe potuto sopravvivere nel bosco. Il pensiero dei gattini non mi rallegrò. Mi avrebbero portato solo nuovo dolore, ma ero contenta che la gatta fosse felice. Tante cose erano accadute negli ultimi tempi. Perla era stata uccisa. Era venuto al mondo un torello, la gatta aveva trovato un maschio, dei caprioli erano morti congelati e i rapaci avevano goduto di un inverno grasso. Io stessa avevo alle spalle molte apprensioni e adesso ero stanca. Stavo distesa sulla panca e se chiudevo gli occhi vedevo all'orizzonte montagne innevate, bianchi fiocchi che mi calavano sul viso in un grande silenzio luminoso. Non esistevano pensieri, nessun ricordo. Solo la grande, silenziosa luminescenza della neve. Sapevo bene che queste immagini erano pericolose per un essere solitario, ma non trovavo la forza per reagire. Lince non mi lasciò in pace a lungo. Tornava sempre a darmi un buffetto col naso. Voltai faticosamente la testa e dai suoi occhi vidi la vita splendere calda ed esigente. Mi sollevai con un sospiro e ripresi la mia fatica quotidiana. Ora Lince, il mio amico e guardiano, non è più con me. E il desiderio di annullarmi in quel silenzio candido, senza dolore, a volte è molto grande. Devo sorvegliarmi da sola ed essere più severa con me stessa di quanto lo fossi prima. La gatta fissa con occhi gialli la lontananza. Di tanto in tanto torna improvvisamente da me e i suoi occhi mi costringono ad accarezzarle la testa tonda, con quella M nera sulla fronte. Se le piace, fa le fusa. A volte il mio contatto le dà fastidio, ma è troppo cortese per rifiutarlo, solo si irrigidisce sotto la mia mano restando immobile e io ritraggo lentamente la mano. Lince era sempre esultante quando l'accarezzavo. È chiaro, non avrebbe potuto fare diversamente, ma non per questo sento meno la sua mancanza. Lince era il mio sesto senso. Da quando è morto mi sento come amputata. Qualcosa mi manca e mi mancherà sempre. Non è solo che mi manchi durante la caccia e per fiutare le tracce, quando devo arrancare per ore dietro la selvaggina colpita, non è solo questo, sebbene la vita per me sia diventata più faticosa. La cosa peggiore è che, senza Lince, mi sento veramente sola. Da quando è morto, sogno spesso degli animali. Mi parlano come esseri umani e nel sogno questo mi appare assolutamente naturale. Le persone che popolavano il mio sonno durante il primo inverno se ne sono andate del tutto. Non le vedo più. Nei miei sogni quelle persone non erano mai gentili con me. Nel migliore dei casi erano indifferenti. Gli animali dei sogni sono invece sempre amabili e sempre pieni di vita. Ma non credo che ciò sia tanto straordinario. Rivela solo cosa io mi aspettassi sempre, sia dagli uomini che dagli animali. Sarebbe molto meglio non sognare affatto. Ormai vivo da tanto tempo nel bosco e ho sognato persone, animali e cose, ma nemmeno una volta la parete. Ogni volta che vado a prendere il fieno la vedo, vale a dire che il mio sguardo la attraversa. Ora, che in inverno gli alberi e i cespugli sono spogli, riesco anche a individuare chiaramente la piccola casa. Quando c'è la neve la differenza quasi non si nota. Di qua e di là un paesaggio bianco. Da questo lato, leggermente deturpato dalle orme delle mie scarpe pesanti. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio.